Come on! Riaprono le attività commerciali. Le incognite commerciali. Le incognite. La riapertura ormai è quasi completa per tutte le attività. Le incognite commerciali. La riapertura. Dire, si è ripartiti con un. Le incognite commerciali. Regole commerciali. Contraddizioni. Contraddizioni. Regole. Contraddizioni. Regole. Commerciale. Molto bene proiettile come piazza. Contraddizioni. Molto bene proiettile come piazza. Molto bene proiettile come piazza. Come piazza. Come piazza. Come piazza. Contraddizioni. Regole. Molto bene proiettile come piazza. Contraddizioni. Regole. Regole. Regole. Le incognite. Noi torneremo a dirti le confidenze. Noi torneremo a dirti le confidenze. Noi torneremo a dirti le confidenze. Regole. Contraddizioni. Regole. Contraddizioni. Noi torneremo a dirti le confidenze. Confidenze. Ci riprenderemo tutta. Ci riprenderemo tutta. Noi torneremo a dirti le confidenze. Contraddizioni. Contraddizioni. Regole. Ci riprenderemo tutta. Ci riprenderemo tutta. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Noi torneremo a dirti le confidenze. Noi torneremo a dirti le confidenze. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Ci riprenderemo tutta. Contraddizioni. Regole. Regole. Regole. Regole. Regole. Noi torneremo a dirti le confidenze. Ci riprenderemo tutta. Ci riprenderemo tutta. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Noi torneremo a dirti le confidenze. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente.